Civiltà. Città greche della Sicilia. A. Ascolta il testo. La Magna Grecia era un complesso di colonie fondate nell'Italia meridionale tra l'VIII e il VI secolo avanti Cristo, quando la religiosità aveva un ruolo fondamentale e rappresentava la cultura di un popolo. Una volta fondata la colonia, era necessaria la costruzione di una cinta muraria per la difesa della città dagli attacchi nemici. Dopo l'assegnazione della terra ai coloni, seguiva la costruzione di grandiosi templi sull'area dell'Acropoli, la città alta, con larghi spazi riservati alle cerimonie religiose e ai sacrifici. Le città greche più importanti della Sicilia sono Agrigento, Segesta, Selinunte e Siracusa, ed erano, al tempo della Magna Grecia, tra le più belle del mondo ellenico.